Amen, grazie Vito, grazie gruppo, possiamo ringraziare, è stato bellissimo. Questo applauso un po' addormentato, ci proviamo di nuovo, uno, due, tre. Ecco, adesso va un po' meglio, bravi, bravi. Sapete, il canto che abbiamo appena cantato è bellissimo, però io cambierei una parolina. È solo in una strofa, ci sono due strofe uguali, dove dice Gesù sii il centro, no? Allora io la prima strofa la canterei Gesù sei il centro, perché è così. Dio è il centro dell'universo, Dio è il centro della nostra vita. E poi la seconda strofa confesserei perché tu sei il centro, sii il centro della vita mia, sii il centro di quello che io vivo e di quello che io sperimento. La cambiamo sta canzone? Non lo so, se Leti, se la vuoi cambiare, vedi tu, eh? Io il suggerimento l'ho dato, lo cambiereste per loro, tanto io quando lo canto già così, quindi va benissimo, va benissimo. Siamo tornati, per questo siete un po', è iniziato settembre, siamo felici, fantastico, glorioso settembre, i ragazzi tornano a scuola, qui hanno esultato solo le mamme, eh? Avete notato? I bambini tornano a scuola, i bambini siamo Gianlu, c'è un'altra settimana, perché me lo dovevi ricordare? E dai, la settimana prossima, non questo lunedì, non domani, la settimana prossima inizia la scuola, quindi... Però siamo tutti pronti, vero? Siamo tutti pronti a rientrare, a riprendere il lavoro, anche se abbiamo lavorato durante l'estate, no? L'estate a lavoro è comunque diversa, no? Quindi siamo pronti, tutti energetici per tornare alla nostra routine normale, giusto? Amen, io lo sono, io lo sono. Se c'è qualcuno di voi che non lo è, o nel caso qualcuno di voi non lo sia, Gianlu, no, no, volevo che agosto durava due mesi, non un mese, allora ci abbiamo il Salmo 91. Ci abbiamo il Salmo 91 che è la nostra arma e che ci rende pronti alla battaglia che ci sta davanti, perché fratelli e sorelle siamo tutti costantemente, anche ad agosto, in battaglia. E in battaglia verso due cose. In battaglia nel riporre la nostra fiducia in Dio. E dire, Dio, se sono in vacanza o sono a lavoro, se va bene o va male, se va alto o va basso, io credo in te. Io so che tu ci sei, io so che tu sei il mio Dio e io so che tu mi hai sotto la tua ombra e la tua protezione. Questa è la prima strada, la prima opzione. E l'altra battaglia, l'altra metà della battaglia è quella di riporre la nostra fiducia in noi stessi. Se non sono io a alzarmi una mattina e combattere, andare al lavoro, eccetera, eccetera, se non sono io a risolvere questo problema, se non sono io a intervenire in questa situazione, se non sono io a comportarmi così in questa relazione, e questa via porta ad ansia, paure, insicurezze, rabbia, quando le cose non vanno come devono andare. E io sono convinto che il Signore ci ha dato il Salmo 91 per combattere questa battaglia, per distogliere il nostro sguardo dal riporre la nostra fiducia in noi stessi e riporre la nostra fiducia in Dio. Perché il Salmo 91 fa parte di quei salmi che si chiamano proprio di fiducia, cioè che ci aiutano a riporre la nostra fede, la nostra confidenza, la nostra fiducia in Dio. Ci sono tanti altri salmi che hanno pezzi al loro interno che ricordano anche questo, come il Salmo 46 che dice tu sei la mia forza e il mio rifugio, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Questo è proprio, no, svegliare il proprio animo e dire, Signore, io mi fido di te. E questo è quello che fa il Salmo 91, e la mia preghiera è che possa essere quell'arma letale contro quello che ammazza la nostra fede. Perché ho una notizia per voi. Tutti quanti noi, la nostra tendenza naturale, la nostra indole, è riporre la nostra fiducia in noi stessi e non in Dio. Per questo il Signore ci ha dato il Salmo 91, per questo il Signore ci ha dato questa arma, per togliere la fiducia da noi stessi e dalle nostre forze e riporlo in Lui. Questa è la battaglia in atto. In ogni cosa che stai attraversando, questa è la battaglia in chi riporrai la tua fiducia. E qui c'è l'arma. La leggiamo insieme, Salmo 92. Ma c'è una cosa, ci alziamo in piedi. Se hai bisogno di chiudere gli occhi, chiudi gli occhi. Concentriamoci e facciamo che sì che questa parola scenda, non solo nelle nostre menti, ma nei nostri cuori. Lasciamoci abbracciare completamente. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, oh Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male. Né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, alla tua dimora, alla tua casa. Poiché Egli commanderà i suoi angeli stessi di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone, sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone. Poiché egli ha riposto il suo amore in me, io lo libererò e lo leverò in alto, al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità. Lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e farò vedere la mia salvezza. Amen. Amen? Questa è la nostra arma, vi potete accomodare. Ed è gloriosa. Sapete, il Salmo 91 è poetico, è bello. Ho sentito più di una persona quando ho detto faccio il 91, è il mio preferito, che non è mai molto semplice, perché poi lì, se è il tuo preferito, non c'è cosa che posso dire che ti va bene, perché è il tuo preferito, tu te lo sei fatto tuo, quindi. Però ha verità profonde e gravi. E io prego che il Signore possa darmi grazia e darci grazia di comprenderle e di spiegarle, perché sono importantissime. Guardate come inizia, il primo verso del Salmo è altamente poetico, è bellissimo, per questo lo ricordiamo, no? Chi lo ricorda? È un salmo famosissimo, lo usiamo soprattutto nelle nostre difficoltà. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. E ricordiamo magari altre versioni nelle quali le abbiamo memorizzato, però è altamente poetico, però è un proverbio, no? Risuona anche come un proverbio, cioè chi vuole qualcosa, è un'istruzione, chi vuole qualcosa faccia questo. Vuoi ombra? Vuoi il riparo, vuoi il riposo, devi fare questo. Così inizia il Salmo. E il Salmo appunto inizia col chi dimora. In altre parole, si potrebbe parafrasare, o io l'ho parafrasato così. Chi è disposto a venire al Signore e non va di fretta. Non è quello che prende il caffè al bancone al volo. No, ma è disposto a venire, a sedersi al tavolino, a stare con me, a prendersi un caffè, faccia a faccia, e parlare. Chi è così? Chi è disposto a fare questo? Allora, chi è disposto a prendersi il tempo, chi non va di fretta, chi è veramente intenzionato? Questo significa, la parola letteralmente dimorare, significa stare seduto, stare in un posto con lui, in intimità, nel riparo. Nel riparo letteralmente significa in un luogo sicuro e nascosto con lui. La bellezza di quel posto, la pace di quel posto, la potenza che c'è in quel posto, la forza che c'è in quel posto. E io, fratelli e sorelle, voglio stare in quel posto. E in quel posto si può andare. Ricordate quando Gesù è morto, che cosa è successo? L'abbiamo detto più volte. Alla sua morte, il telo del Tempio, che simboleggiava la separazione del popolo di Dio al luogo santissimo dove risiedeva la sua presenza, si è squarciato. Che cosa ha detto Dio con questo atto? La porta è aperta. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, in me troverete riposo. Vieni a me, fidati di me, siediti a quel tavolino, non andare di fretta. Non passare dal bancone, siediti con me. Quel posto è glorioso. E sapete, quel posto, in quel posto si sta e si entra, non secondo quello che si sa. Non in base a quello che sai di Dio. All'ingresso di quel posto non si deve passare un test sulla Trinità, sulla giustificazione, sull'ecclesiologia e l'escatologia. No, il Signore dice, tu vieni a me, siediti con me. Magari poi te le insegno io direttamente quelle cose. Vieni a me, stai con me, stai a quel tavolino. E in quel posto non si entra in base a quanto fai per il Signore. Quando hai un invito a cena da un amico, nell'intimità della sua casa, per stare e stare in compagnia, in pace e in armonia, alla fine della cena non gli chiedi il conto. Non gli chiedi quanto ti devo, che cosa devo fare per ripagarti. L'amore di una moglie non si ripaga, quanto ancor meno l'amore di Dio e di Cristo Gesù. Non c'è nulla che tu possa fare per squarciare quel telo. Perché? Perché lui l'ha fatto già. E dice, vieni a me, siediti a quel tavolino. Siediti. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo, chi è lì? E il Signore dice, vieni qui. Sapete come si entra in quel posto? Chi ci entra? Chi vuole essere intimo? Chi vuole essere amico? Chi vuole lo fa con sincerità? Chi riconosce che Gesù ha già pagato quel prezzo affinché io potessi sedermi a tavolino col Dio Altissimo. Solo questo ci vuole. E il Signore ricerca proprio quei cuori che vogliono stare a quel tavolino, che gli sono intimi, che confidano in Lui, che lo conoscono, non che conoscono di Lui e come Lui funziona, ma che conoscono Lui e chi Lui è. Il Signore cerca queste persone. E quando noi ci sediamo a quel tavolino con Lui, lì c'è profonda intimità e lì conosciamo Dio per chi Lui veramente è e le nostre situazioni di conseguenza. Potrei andare avanti per 3 ore, però questa è solo la prima frase del Salmo. Chi dimora, chi sta a quel tavolino, chi sta in quel luogo di riparo, chi sta in quel luogo intimo con il Signore, il Salmo poi dice riposa all'ombra dell'Onnipotente. Riposa all'ombra dell'Onnipotente. Sapete che cosa significa riposare all'ombra dell'Onnipotente? Riposa in questo caso significa rimane perennemente. Chi si siede al tavolino entra in un luogo, si mette in una posizione di perenne sicurezza, di una perenne ombra che ci protegge dai raggi malefici che vengono dalla vita. Chi riposa in quel luogo si mette in questa situazione sotto la sua ombra, sotto la sua ombra, e la sua ombra è dolce, all'ombra dell'Onnipotente, che è eterna. Guardate, c'è scritto riposa, cioè rimane perennemente in quel posto che è la sua ombra dell'Onnipotente. E qui potete mettere quello che volete. Onnipotente significa che Dio può ogni cosa. E fra le miliardi di cose che Lui può è che Lui è in controllo del tempo. Lui è eterno. È uno a caso che io ho scelto. Lui è eterno e la sua ombra è eterna. Ed eternamente ti copre e ti coprirà. Per Lui un giorno sono come mille, mille come uno. Lui ti copre con la sua ombra eterna. Chi riposa nel ritiro dell'Altissimo alberga o rimane perennemente all'ombra dell'Onnipotente. Questa è la nostra arma e questo è quello che noi dobbiamo capire. La sua nuvola non è come l'ombra del mio corpo in contrasto con la luce. Non funziona così. Non è che dove io vado la sua ombra mi segue. Non è così. È piuttosto come un'ombra di una nuvola. che a prescindere dove mi trovo, o ovunque io vado, o qualsiasi cosa io faccia, Lui è già lì che mi copre. Lui è già lì che mi protegge, Lui è già lì che con la sua presenza mi dà la sua protezione, la sua liberazione, la sua guarigione. Questo è il mio Dio, il tuo Dio. Vuoi ombra? Vuoi ombra? E allora devi andare in quel posto. Vuoi protezione? E allora devi andare costantemente in quel posto per rimanere permanentemente all'ombra della sua protezione. Il Salmo non finisce qua, va avanti. Perché adesso il salmista dice, è stato in quel posto, si è messo sotto la sua ombra, ha conosciuto il Signore, lo conosce intimamente per quello che è, e dice, io dico, perché lo conosco, io dico, e io lo confesso. Qui non posso stressare l'importanza del dire, fratelli e sorelle, del nostro dire. Qua il Salmo due volte dice, io dico, e poi dice nel verso 9, perché tu hai detto. Dobbiamo dirlo. Nel nostro cuore, ad alta voce, dobbiamo dirlo. Dillo. A chi? E che cosa? Lo vediamo. C'è scritto, io dico, all'Eterno. Altri salmi, come vi ho già spiegato, predicano a noi stessi, no? A volte dobbiamo dire a noi stessi, anima mia, perché ti struggi dentro di me? Spera nell'Eterno, no? Te lo stai dicendo a te stesso. A volte lo dici agli altri, no? Alcuni confidano in carri, altri in cavalli, ma io confido nel Signore. Lo sto dicendo al mio nemico. In questo caso, invece, è all'Eterno. A quel tavolino, in intimità, dici all'Eterno. In altre parole sta dicendo, almeno come lo intendo io, come lo vivo io, Signore, io mi sto lasciando andare. Io so quello che sto vivendo e magari tutto sembra, tranne che sono sotto la tua protezione, sotto la tua ombra, ma io lo dico. Io mi lascio andare perché sono qui con te, ti ho faccia a faccia, so chi sei, sei glorioso. Sei potente, sei onnipotente, per questo lo dico, mi lascio andare e te lo dico a te, perché riconosco chi tu sei, riconosco quello che sei nella mia vita. E che cosa dice? Dice, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio Dio in cui confido. Il salmista dice al Signore, te lo dico, lo confesso perché ci credo. Vedete la battaglia della fede? Non riporre la fiducia in se stessi, ma in Dio. Questa è l'arma. È l'arma che sta usando il salmista con Dio e sta dicendo, Signore, io credo in te. Questa è la mia fede. Io so, sei qui con me a questo tavolino. E io dico, tu sei il mio rifugio. Tu sei il mio rifugio, tu sei quel posto che a prescindere quanto forte sia quella bufera di neve, tu sei la mia baita, quella calda, protettiva, forte baita in cui io mi posso rifugiare. E io dove sono io al sicuro? Tu sei quello per me, io lo dico e io lo confesso a te. E quando lo confesso a te, lo confesso a me stesso e a tutti, fra parentesi. Tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza. Tu sei la mia fortezza, tu sei la mia forza. Confessa nella tua situazione a Dio, Signore, tu sei la mia forza. Questo è quello che significa fortezza, ma la fortezza non è solo forza, no? La fortezza è quel luogo strategicamente costruito, no? È quel castello costruito in un determinato modo, con muri abbastanza spessi, con feritoie nel punto giusto per attaccare il nemico. Quindi quel luogo costruito in un determinato modo, però in un determinato posto pure, no? Il castello non si mette in una grotta della montagna, no? Si mette sull'apice della montagna, dove ci si può accorgere che il nemico sta già arrivando, dove io posso vedere da lontano che il nemico sta preparando ad attaccarmi. e io posso difendermi. Non solo posso difendermi, posso attaccare in tempo e distruggerlo. Signore, Tu sei la mia fortezza, non solo sei costruito intorno a me in modo tale che io posso difendermi dal nemico e attaccarlo nel modo giusto, sei nel posto giusto e quando io sto con te al tavolino io mi trovo in quella fortezza dove posso vedere il nemico che arriva. Posso vedere quella malattia, posso vedere quella circostanza, posso vedere quella lite, posso vedere quella nuova sfida, posso vedere quella nuova relazione, posso vedere quel nuovo anno scolastico, come tu vuoi che io lo veda. E posso attaccare il nemico dalla prospettiva che tu vuoi. Tu sei la mia fortezza e io lo dico che tu sei la mia fortezza, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza. Tu sei il mio Dio in cui confido. Tu sei il mio Dio in cui io confido. Tu sei Dio e sarai sempre Dio. Sei onnipotente e altissimo, glorioso, che ha un'ombra eterna che mi protegge eternamente. Ma il salmista, in questo caso, non dice tu sei Dio. Dice tu sei il mio Dio. Sì, è vero, tu sei l'Altissimo e l'Onnipotente. Sei l'unico e vero Dio. Non c'è Dio al di fuori di te. Però non sei rimasto là. Non sei quello là lontano che ignora la mia situazione, che non si interessa delle mie circostanze, che non sa cosa fare con quello che sta accadendo intorno a me. No, tu sei il mio Dio. Tu conosci quello che io sto vivendo, tu conosci quello che io sto affrontando, tu conosci quello che io ho paura, ciò di cui ho paura, tu mi conosci, tu sei il mio Dio e io confido in te. Vedete qual è l'arma? L'arma potente di questo Salmo 91? E io confido in te. E io confido in te. Io non le calcolo neanche le circostanze intorno a me. Io dico alle mie circostanze, o nel bel mezzo delle mie circostanze, io dico a te, Signore, ma tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio Dio che non ignora la mia situazione e io confido in te, io confido in te. Questo proclama il salmista. E poi nel verso 9, facciamo un salto avanti, nel verso 9 c'è scritto, poiché hai detto... Poiché hai detto, e qui il Signore che risponde al salmista a quel tavolino in intimità, poiché tu hai detto, perché l'hai proclamato in cuore tuo o ad alta voce, per questo qui risottolineo l'importanza, fratelli e sorelle, del nostro dire. Il nostro dire costruisce la nostra fede e fa agire. Qui c'è una causa e conseguenza, perché noi abbiamo detto, Dio reagisce. Perché noi abbiamo detto, il Signore interviene. Non può essere più chiaro il verso 9. E dice, perché tu hai detto? Perché tu lo hai detto? Perché ci credi? Perché non solo lo hai pensato, non solo ti è sfiorato questo dubbio, ma sei certo e lo hai detto. Perché lo hai detto? Perché lo hai detto? Leggiamo questo verso. Poiché tu hai detto, Eterno, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male. Né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, alla tua casa, dove vivi. Niente. Abbiamo un Dio glorioso, abbiamo un Dio onnipotente, abbiamo un Dio altissimo, abbiamo un Dio grande che ci protegge da ogni cosa. Per riassumere i versi dal 3 al 13, Dio ci protegge. Dio ci protegge giorno e notte. Dio ci protegge dalle guerre, Dio ci protegge dalle malattie, Dio ci protegge dai disastri, Dio ci protegge dai nemici, animali e umani, c'è scritto. È glorioso, il nostro Dio, il tuo Dio, ti protegge. Lui è quell'ombra eterna che non fa cadere alcun, ma mille te ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nessuno ti colpirà. Amen? Abbiamo un Dio glorioso. E io l'ho sperimentato nella mia vita. E ci potrebbero essere infinite testimonianze nel nostro mezzo del fatto che abbiamo pregato e il Signore ha guarito, che abbiamo pregato e il Signore ha protetto, ha impedito la malattia, ha impedito la sciagura, ha impedito una circostanza difficile. Ricordo sempre i miei genitori che ci dicono, io non ricordo, ero troppo piccolo per ricordarmelo, che fin quando non ci era stato assegnato un medico e non sapevamo dove andare, loro pregavano e noi non ci ammalavamo. Non ci accadeva niente. Appena abbiamo ricevuto il dottore, ci siamo iniziati ad ammalare. Il nostro Dio ci protegge. Abbiamo un Dio glorioso. Ci credi? Lo puoi dire. Perché se lo dici, Lui interverrà. Amen? Ma questa affermazione, molto forte, molto pesante, nulla ci accadrà. C'è scritto letteralmente nel 10, non ti accadrà alcun, ma niente, non ti accadrà alcun male, niente. È molto gravosa come è molto importante, molto, molto pesante come affermazione, o no? O no? Solo quando l'ho letto io, qui il cervellino mio famoso, ta-ta-ta-ta-ta! Perché qui si insinua un forte, forte, forte dubbio nella mia vita, in quello che leggo nel Salmo 91 addirittura, nel resto della Bibbia, ma ancora di più nella mia esperienza quotidiana, di chiesa, di famiglia, di quello che volete. Alcuni potrebbero dire, e io direi vero, giusto, che Dio protegge coloro che lo riconoscono. Se cammini secondo le sue vie, se dici e lo riconosci, il Signore ti protegge. Se non fai questo, il Signore non ti protegge, non ti posizioni sotto quell'ombra eterna. E a quello direi giusto, anche perché c'è scritto in questo Salmo. C'è scritto: 1.000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Gli empi sono quelli che non camminano, che non riconoscono, che non dicono Dio, che non si siedono a quel tavolino. Loro saranno ricompensati di un'altra ricompensa. Però qui c'è una matassa da sbrogliare. Quando mi stavo preparando, Signore, e ho scritto proprio su un fogliettino, questa è una matassa da sbrogliare. Qui c'è un paradosso. E qual è il paradosso? È che io vedo nella mia vita che non solo gli empi vivono il male, ma anche i giusti, ma anche i fedeli, anche quelli che dicono, anche quelli che stanno seduti costantemente e fedelmente a quel tavolino, si ammalano, attraversano tragedie, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il Salmo 91, come dicevo, lo dice, no? Nel verso 15, nel verso 10 abbiamo letto, no? Nessun male, nel verso 15 c'è scritto che, lo leggo, egli invocherà, io lo risponderò, sarò con lui nell'avversità. C'è scritto, nell'avversità, nel dolore, nella malattia, nella tragedia, nel nemico, di giorno, io sarò con lui. Allora io dico qua, Signore, nessun male o nell'avversità? Come funziona? Come funziona? E qui la mia fede è messa alla prova, la mia fede in Dio, la mia fede nella Bibbia, nella mia fede in quello che credo. Vedete, il Salmo 91 sta facendo proprio questo. Ricordate, l'arma che costruisce la nostra fede in un Dio che è onnipotente e altissimo, ci protegge eternamente. Come funziona questo? Come possiamo sbrogliare la matassa? Guardiamo a Gesù. Gesù è sempre la soluzione, vero? Ma guarda Gesù, ma in questo caso anche in maniera particolare. I versi 11 e 12 sono in chiaro riferimento a Gesù, o meglio, sono citati da Satana quando tenta Gesù. Vi ricordate? Satana porta Gesù sul punto più alto del Tempio e dice gettati. Gettati, perché c'è scritto, e cita il Salmo 91, e dice, perché c'è scritto, se tu sei il figlio di Dio, Gesù, poiché sta scritto, e cita l'11 e 12, lui comanderà i tuoi angeli di custodirti, e il tuo piede, eccetera, eccetera, eccetera. E come risponde Gesù? Gesù dice, è altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Che fa qua Gesù? Dice: io non lo so. Io posso anche cadere e sfracellarmi, ma so che io sono sotto l'ombra delle sue ali. Io so che Dio è il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Per questo non gioco scherzetti con Lui, per questo non lo tento. A vedere, vediamo, è vero? Vediamo. No, io confido in Lui. Io ho fede in Lui. Lui è il mio rifugio, Lui è la mia fortezza, Lui è il mio riparo, Lui è la mia ombra eterna. Però Gesù ha sofferto. Oh, se Gesù ha sofferto, no? La croce, una fra le mille, racchiude tutte le sofferenze, forse, fisica, psicologica, emotiva. I discepoli l'hanno abbandonato, tutto l'hanno abbandonato. Cioè, tutte le sofferenze si sono racchiuse su quella croce. Era così pesante quella croce che a un certo punto Gesù ha gridato, e lo sappiamo benissimo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È rimasto il suo Dio. Avete notato? Gesù ha gridato: mio Dio, mio. Non Dio, il Dio, il Padre di tutto, la natura, il creato. No, ha detto: mio Dio. In quel grido c'è tutta la confidenza ancora, che rimane. Nel dubbio, c'è tutta la confidenza che rimane. E Gesù morì. Sappiamo bene, Gesù è morto. Ma Dio Padre era lì. Dio Padre era il suo rifugio, la sua fortezza, il suo Dio. Il motivo della sua fede era ancora in Dio. Lui era il suo alto riparo, Lui era quell'ombra eterna che l'ha protetto da ogni cosa. Perché? Perché quello che sembrava tragedia, distruzione, malattia, sofferenza immane, che è durata 3 giorni, al 4° giorno si è rivelata completamente diversa. Quello che è sembrato per 3 giorni, distruzione, sofferenza, malattia, tutto quello che volete, mettetecelo, è risultato in una gloriosa vittoria. Dio era il suo rifugio, Dio era la sua salvezza, Dio era quello che ha fatto cadere al suo fianco e alla sua destra, ma la morte non l'ha potuto conquistare. Lui ha conquistato la morte, è risorto e ha vinto. Questo è quello che è successo a Gesù, e questo sbroglia la matassa, quello che momentaneamente, fratelli e sorelle, può sembrare a voi distruzione, malattia, sofferenza, metteteci qualsiasi vostra circostanza, quello che al momento può sembrare questo. Un giorno davanti al Dio eterno noi capiremo che era al fianco e alla destra, ma che non ci ha sfiorato, perché ci ha mantenuto la vita, la libertà, la pace, la speranza e la gioia. Questa è la nostra prospettiva, questa è quando ci sediamo a quel tavolino, è quello che comprendiamo, è quello che abbracciamo ed è quello che confessiamo: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio Dio in cui io confido. Perché? Perché la tua ombra è perfetta, la mia no. Io vivo al momento. Io vivo questo momento, io vivo questa malattia, io vivo questa circostanza, io vivo questa catastrofe, come la scorsa settimana, ma la tua prospettiva è eterna. E quello che a me sembra distruzione, per te non lo è, per questo io posso confessare, posso costruire la mia fede, posso usare il 91 come quell'arma nella mia vita, nelle mie circostanze che mi fanno dire: no, ma Signore, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio, che mette ogni cosa nella giusta prospettiva. Pensate alla vita di Giuseppe, venduto dai fratelli, schiavo, accusato falsamente, è stato in carcere per 7 giorni, per 7 anni, forse pure di più, non ricordo bene adesso. Ha sofferto la lontananza del papà, della famiglia, la sicurezza della casa. Nel capitolo 50 Giuseppe fa una confessione ai fratelli e dice: ma il mio Dio è stato il mio rifugio, è stata la mia fortezza, è stato colui in cui ho confidato. Perché? Perché quello che voi avete inteso per male, Lui lo ha inteso per una cosa gloriosa: la mia salvezza e la salvezza di un popolo intero. Questo paradosso lo vediamo anche in Luca 21. Gesù stesso dice, sentite cosa dice Gesù stesso: voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Sentite il 18 adesso: ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Signore, come funziona? Saremo messi a morte, traditi da padre, madre, fratello, sorella. Oh, neppure un capello del nostro capo perirà. E noi con la nostra costanza salveremo la nostra vita. È un paradosso. È un paradosso che nella nostra momentaneità, nel nostro vivere l'attimo, non ha senso. Ma Dio è eterno. E eternamente nella sua ombra tutto avrà senso. Forse non lo ha oggi per te, ma lo avrà. Fratello, sorella, amico, amico, lo avrà. Per questo noi possiamo dire col Salmo 91 e usare il Salmo 91, perché ve ne siete accorti, usiamo il Salmo 91 soprattutto nelle nostre difficoltà e diciamo: chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, il mio Dio in cui confido e confiderò. Noi viviamo nel qui, ma non ancora. Che cosa significa questo? Che cosa significa che noi viviamo nel qui, ma non ancora? Noi viviamo in quell'attimo, in quel momento dove il regno di Dio, il fatto che Lui è ombra, è sicurezza e protezione, è qui. Noi ci ammaliamo, preghiamo e Lui ci guarisce. E Lui ci protegge. E Lui ci libera. Ma non ancora. O meglio, a volte non completamente. Perché? Perché oggi noi siamo giustificati dal nostro peccato. Un giorno noi saremo uomini e donne nuove. Perché oggi, e lo leggo questo, oggi Dio guarisce. Un giorno avremo corpi nuovi che non periranno. Oggi siamo riconciliati a Dio, un giorno avremo completa intimità con Lui. Oggi lo vediamo come in uno specchio distorto, non lo vediamo chiaramente. Un giorno lo vedremo faccia a faccia. Lo vedremo faccia a faccia. Questa è la potenza del Salmo 91, fratelli e sorelle. Questa è la potenza di questa arma nella nostra battaglia per fede. E nelle nostre circostanze dire: ma io so che la prospettiva, Signore, è diversa, perché io sto a quel tavolino e io so che la mia prospettiva momentanea è diversa da quella tua eterna. Io confido in te. Sì, è vero, e io lo dico: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio Dio in cui confido. Amen. Amen. Siamo pronti per questo settembre? Io sì. Perché? Perché sono pronto io? No. Perché io so che il mio Dio è il mio rifugio. Perché io so che il mio Dio è la mia fortezza contro qualsiasi cosa. Perché io so che il mio Dio è mio Dio. E io posso avere fiducia, confidare in Lui, a prescindere dalle mie situazioni. Anzi, proprio nel bel mezzo delle mie situazioni, perché so che c'è una prospettiva diversa, che è diversa, e che è 1000 alla mia sinistra, 10.000 alla mia destra, ma nessuna cosa mi scalfirà. Nessuna cosa mi scalfirà, perché io sono Lui. Ci alziamo in piedi. Sapete una cosa? Ci sta tutto. Nella tua sfida che ti sta davanti per settembre. Magari, non sono pronto a settembre perché non ho ancora risolto quello che sto vivendo oggi, anche se è già settembre. Ci sta tutto. che tu ti siedi a quel tavolino, che vai da Lui in intimità, nel luogo sicuro, magari la tua stanzetta, chiudi la porta e dici: mio Dio, mi hai abbandonato? Mi hai abbandonato? Perché la mia situazione dice tutt'altro. La mia situazione dice malattia. La mia situazione dice distruzione e scoraggio. Mi hai abbandonato per caso? Mi hai abbandonato? Signore, mi hai abbandonato? Perché io non capisco questo. Io non lo vi, non, che cosa, Signore, sta accadendo? Mi hai abbandonato? Questo grido ci sta tutto. Perché forse senza neanche accorgerti ti sarai posizionato sotto quell'ombra. Senza neanche saperlo, mentre gridi, forse ancora prima che iniziavi quel grido, solo perché sei andato a Lui e hai gridato in quel modo, ti sei posizionato sotto quell'ombra. Oh, è la dolcezza, la forza, la pace che c'è in quell'ombra, la potenza che c'è in quell'ombra, che ti segue ovunque, come la nuvola per il popolo di Israele. Non c'è stato un giorno che non ha avuto quella copertura. Questo io prego per ognuno di noi. Chiesa, usiamo il Salmo 91 come la nostra arma nella nostra battaglia per fede, per vincere la nostra battaglia di fede. Signore Gesù, noi veniamo davanti a noi, a Te, individualmente e come Chiesa, e confessiamo. Signore, lo diciamo perché sappiamo che è vero, perché sappiamo, perché ci siamo seduti a quel tavolino. E Padre, io prego per coloro che sono qui in questa stanza e non si sono mai seduti a quel tavolino, non ti hanno mai riconosciuto per quello che veramente sei. Signore, apri gli occhi del loro cuore, che possano vedere che quella porta è aperta e non c'è nulla che devono fare o che possono fare per sedersi a quel tavolino. E Padre, che noi possiamo sederci a quel tavolino con tutte le nostre circostanze e in tutte le nostre circostanze, Padre, confessare, gridare a Te e combattere con Te affinché sia un settembre glorioso, affinché sia un ottobre glorioso, affinché sia un novembre glorioso, affinché sia un'eternità gloriosa con Te, perché Tu sei il nostro rifugio, perché Tu sei la nostra fortezza, perché Tu sei il nostro Dio in cui noi confidiamo. Per questo noi ci arrendiamo a Te, Signore, per questo noi ci arrendiamo a Te, nel nome di Cristo Gesù.